Pyongyang si sta tranquillamente bene, uno ci può andare a fare le vacanze tranquillamente che non ha problemi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A un certo punto, caro David, grazie innanzitutto a caro amico di essere qui tra noi, ci hai fatto un grande regalo questo venerdì, ci hai fatto veramente un grande regalo. Quando dicono, guarda, come direbbe Taormina, quando ti dicono che sei un cretino, non sbagliano proprio, guarda, non sbagliano proprio. Ti dicevo, caro David, grazie per essere qui. No, nel tuo giorno di lavoro. Esatto. Grazie per essere qui. Sì. Umilmente ti ringraziamo per essere qui. Prego, sì. Prego, signor prego. Lele Mora, a un certo punto oggi sembrava che si fosse un po' sfilato, no, dal processo Rubio. Sì. Comunque sembrava che avesse mollato Berlusconi, una cosa clamorosa, poi ha un po' ritrattato, eccetera, eccetera. Comunque le frasi pronunciate al processo sono queste: ad Arcore abuso e degrado. Ho letto ieri su un quotidiano nazionale di grande diffusione come vi siano tre parole per definire quanto è successo e quanto è oggi al vostro giudizio: dismisura, abuso di potere e degrado. È vero, così è stato, ed io almeno nell'eccesso e al degrado, come ebbe a dire nella dichiarazione che feci quando sono stato scarcerato e ho prima letto, ne sono stato un passivo componente. Poi a un certo punto dice: il degrado era mio. Il degrado è mio, non è di Berlusconi, il degrado è di Arcore e non è di Villa San Martino. Cosa sta il suo degrado? Il mio degrado, perché una persona che si è messa in situazioni imbarazzanti e degradanti. Ho sbagliato e qua spero e voglio credere, perché credo nella magistratura, che capiranno che anche qua non c'è niente. Per me, dall'85 all'ultima volta. Hai capito? Lele Mora che si smentisce. Vabbè, il riferimento a Berlusconi sul degrado era chiaro, no, Parenzo? Beh, di che stiamo parlando? Beh, sì, c'è la discrasia tra ciò che pronunzia all'interno dell'aula di giustizia e ciò che invece dichiara ai cronisti fuori il palazzo. Ma come sei diventato acculturato? Come sei diventato acculturato? Pronuncia adesso queste parole, ma parla come mangia. Ma vaffanculo, mi fa la trasmissione stasera. Che devo fare. Sono al Teatro delle Vittorie. Sì, ma stai tranquillo. C'è un grande ospite, stasera ti lancio, stasera ti faccio un grande lancio, così magari recuperi qualche punto, ti faccio un grandissimo lancio, fermo lì, no, fra poco, che Barbara Spinelli, aspetta. Intanto Lele Mora dice: Berlusconi non aveva bisogno di me, io sono un umile uomo di campagna per avere le donne. Sì, vabbè, d'accordo, ma nessuno dice che aveva bisogno di te. Però è un fatto, perché uno non devo dire portavo delle ragazze da Berlusconi? Non c'è niente di male, per me non è una condanna. Cioè, per me non sei nemmeno un pappone, caro Lele Mora. Sei una persona che ha fatto una vita un po' strana, ma al limite, per tua stessa missione. Secondo me non sei uno che ha indotto alla prostituzione, come dicono i giudici. Portavi però delle ragazze da Berlusconi per fargli un piacere. Cioè, tu dici non è un magnaccio. Ma assolutamente no. Di tutto questo, forse quello no. Favoreggiamento, induzione alla prostituzione non ce n'è, anche perché Berlusconi credo che non abbia bisogno di uno come me se vuole andare a letto con una donna. Si chiama Silvio Berlusconi, presidente di un'azienda importante o ex presidente, uomo di potere, uomo con tanti soldi, non ha certo bisogno di un'umile persona che viene dalla campagna per avere le donne. Penso che ci sono le donne che gli fanno la fila per andarci. Beh, questo da un certo punto di vista è corretto. Poi chiede scusa a tutti, ai comunisti, ai giornalisti, a Formigli. Ti ricordi a Formigli quando lo mandò a fare in culo? Ti ricordi? Disse: ti mandi i comunisti a spezzare. Quella intervista telefonica. Sì, sentiamo. Pensavo anche a tante mie arroganti polemiche quando offesi Formigli, i giornalisti e i comunisti. Per loro, per il loro lavoro, le loro idee, con frasi e un linguaggio per me oggi irripetibile. Ma lo vogliamo ricordare, noi che siamo dei bastardoni, caro Parenzo, lo vogliamo ricordare il noi vero... Noi che siamo cattivissimi, tanto per citare un libro di successo internazionale. Esatto, ma devo dirti la verità, sì. Che il vero Lele Mora non è questo agnellino che vediamo adesso. Cioè vabbè, questo, però questo... le persone cambiano. Sì, per carità, però non è questa pecorella che vediamo adesso, le persone cambiano. È quello della famosa telefonata, una telefonata carpita come spesso facciamo noi, ma sì, appunto però... per questo... appunto per questo una telefonata geniale in cui diceva maiali, porci, gente di merda. Sentite. Beh, io l'ho chiamata perché comunisti di merda, siete dei comunisti di merda, ma smettetela, vergognatevi. Ha detto... Se siete su una TV di Stato dove la gente paga il canone per vedere, non per essere insultata. Quindi lei... arriverà veramente, spero che vengano i fascisti che vengano a spaccargli le gambe a chi parla. Sul ritorno di Forza Italia, perché già abbiamo un ospite collegato, Parenzo, sul ritorno di Forza Italia solo una parola, solo una frase, solo un personaggio. Antonio Razzi, senatore del PDL. Si ritorna al passato per poi tornare al futuro. Com'è? Al futuro? Com'è? Non ho capito. Si può anche ritornare al passato, ma migliorandolo. Per tornare poi al futuro, cioè indietro per andare avanti. No, per ritornare ai numeri uni. Numero uno. Per tornare i numeri uni. Siamo qui 800 24 00 24 con David Parenzo in collegamento da Roma. David? Certo che ci sono. Grande ospite, fermi tutti. È con noi Ali Agca, buonasera. Buonasera. Come sta? Come? Parenzo, non te l'aspettavi questa cosa qua? Ma veramente, signora Ali Agca. Sì, è lui, certo. Quello che, è lui. Che ha sparato al Papa? Sì, lo dica perché non ci crede, Parenzo, signora Gcia. Chi è Parenzo, chi è? È il mio... Il sostituto procuratore. No, il conduttore della co-conduttore della trasmissione, non ma è un giudice. Ma signora Lia Gcia. Sì, sì, è veramente lui, è lei? Ma dica qualcosa in turco. Bene, bene. Come si dice buonasera in turco, signora Gcia? Yasiamma, benissimo. No, ma allora dica buonasera Zanzare in turco, però questo è uno scoop pazzesco. Buonasera Zanzare, detto in turco dal signor Ali Agca. Buonasera alla Zanzara, come si dice la Zanzara? Yasiamma Zanzara. Oh, benissimo. Beh, ma questo vale la trasmissione, eh? Benissimo, senta signor Agca, lei ha scritto ma un libro. Benissimo, il signor Agca, come fai a trattare? Dice benissimo signor Agca. Perché che c'è di male, scusa, non ho capito, è un uomo libero, è un uomo libero, sì, signor Agca. Però al Papa, sì. Comunque. Sì, ha scritto... sono un uomo libero, grazie Dio. Certo, tra l'altro si è avvicinato, ha lasciato la religione musulmana, l'Islam, so. E si è avvicinato a Cristo, un sacco di cose interessanti. Ha scritto lì... Leda, io ho sì. detto sempre, sì. ogni religione è morta, sì. Dio è immortale. Dunque, sì. poi il Cristo è unica speranza, unica salvezza sì. per il genere umano. Benissimo. Oltre Cristo non esiste nessuna vita, nessuna salvezza. Capito, Parenzo? Ma ho capito che sei convertito, signor Agca, però io andrei su altre cose più che altro. Sì, no, assolutamente. Adesso non è che uno invita alla Zanzara, signora Lia Agca, e la conversione, benissimo, sei convertito, ottimo, l'abbracciamo fortissimo, il signor Lupo Grigio, e va bene. Ma vorremmo sapere qualcosa della signora Orlandi, noi, del sì, signor Agca, siamo molto interessati, dobbiamo credo. Dire, siamo molto perché interessati. Però, parlare di religione cattolica con Agca... No, assolutamente. No, però il devo dire una cosa. Sai che sono emozionato veramente perché abbiamo il signor Agca? Beh, certo, l'uomo che ha sparato al Papa, l'uomo che ha fatto la storia dell'Italia degli ultimi anni, diciamo la verità, insomma, questa è la realtà. Dove vive lei, signora Gcia? Vivo in Istanbul. Vive a Istanbul, cioè... Sì. Non era in Tunisia fino a qualche tempo fa, no? No. Mai stato in Tunisia. Senta, signora Gcia, lei ha scritto un libro, mi avevano promesso il paradiso, la mia vita e la verità sull'attentato sì. al Papa, un libro scritto sì. per Chiare sì. Lettere qualche mese fa. Senta una cosa, ma torniamo però sulla vicenda della Orlandi, perché negli ultimi giorni un giudice, Capaldo, che dirige le indagini, ha detto che è morta. Ecco, secondo lei è morta o no? Veda, il giudice parla delle sue supposizioni. Sì. Quindi un magistrato, sì, in questi casi delicati dovrebbe parlare con i documenti, con i dati di fatto, con i suoi atti. Vabbè, allora, ce li avrà questi documenti, no? Questa supposizione basta. Deve dimostrare dove è morto, sì, chi ha ucciso. Cioè dice il falso, dice, secondo lei? Assolutamente una opinione sbagliata, basta. Un'opinione sbagliata, cioè secondo lei è viva la signora Orlandi? Secondo me, nessuno ha il motivo per uccidere Emanuele Orlandi. Io parlo chiarissimo. Sì. Emanuela Orlandi, sì, molto probabilmente si trova, sì, in un luogo segregato per non poter comunicare con nessuno. Sì. Il governo Vaticano sa tutto e nega tutto. Cioè il Papa sa tutto, anche questo Papa sa tutto? Anche il Papa nega... No, non sto dicendo il Papa, attenzione. Sì. Sto dicendo il governo Vaticano. Ah, e secondo lei questo Papa sa qualcosa o no? Forse sa, ha detto che forse se Emanuela è sta in cielo, sì, preghiamo per lei. Attenzione, se... Sì. Ha detto, cioè non lo sa se è viva o no. Lei invece ha la certezza che è viva. E dove si troverebbe la signora Orlandi, viva, segregata? Guarda, lo sa perfettamente il Vaticano. Io farò un documentario, sì, film televisivo, per raccontare tutto al mondo. Ah, questo è interessante. Scusi, quando lo girerà questo documentario? Ma non riesco a trovare qualche finanziatore, qualche... Ah, c'ha bisogno dei soldi del produttore per farlo, però. Però vuole raccontare in un documentario televisivo tutta la storia dell'Orlandi, giusto? Non solo. Non solo. La storia di Orlandi, Vaticano... il segreto di Fatima, la pista bulgara, tutto. Scusi, signora Cicciola, però scusi un attimo, Vaticano, scusi un attimo se la interrompo. Però lei aveva già detto che è viva, ma dove si troverebbe la signora Orlandi viva? Lo sa lei. Io vi garantisco che il Vaticano sa tutto. D'accordo, ma se lo sa il Vaticano lo saprà pure lei. Lo saprà pure lei se lo sa il Vaticano, perché se lei lo dice, evidentemente è certo della esistenza in vita di Emanuele Orlandi. In Europa, in un convento di clausura. Addirittura? Vaticano, no. Sì, assolutamente, in qualche convento di clausura nascosto dal Vaticano. Quindi il Vaticano nega perché ci... Questa è una storia inconfessabile, incredibile. Va bene. Ascolta. Sì, un attimo solo, che abbiamo un'interruzione, abbiamo il traffico, signor Agcia, un attimo solo. Volevo sapere una cosa, ma lei segue la politica italiana? Ma un consigliere del Papa Ratzinger cosa diceva in un documento? Che diceva? Non dobbiamo parlare mai di Emanuele Orlandi perché il mondo ci guarda, hai capito? Ho capito. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. La zanzara dei misteri, caro Parenzo. Un grande ospite questa sera ad aprire la nostra trasmissione in collegamento con la Turchia, Ali Agca. Non ti sorprendere, Parenzo, è proprio lui l'uomo che ha sparato al Papa. Adesso è un uomo libero, si è avvicinato, sì, no, molto a Cristo. Sì. Uno che siamo riusciti a raggiungere il signor Ali Agca, che ringraziamo e salutiamo qui in collegamento con la zanzara. E tu mandi il traffico come fosse un signore. Lo so, hai ragione. Devo dire che hai ragione. Traffico, cioè Ali Agca e tu mandi il traffico. Hai ragione. Hai ragione. Ho capito, in video ogni tanto quei quattro barboni straccioni che dicono soltanto cazzate e lì mandi sì il traffico. Ma qui dici ospite, Ali Agca, traffico. Ma come traffico? Lo so, hai ragione. Ma due ore a raccontarci tutti i segreti del Vaticano. Hai ragione. Perché lui è così sicuro che il Vaticano sa dov'è la Orlandi? Come mai è così sicuro? Come fa a dirlo che è così sicuro? Io? Sì, come fa a essere così sicuro che il Vaticano sa, signor Agca? Signor Ali, ma il Vaticano sa, cioè il Vaticano ha la complicità nel rapimento di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. Guarda, sì, tu sai perché il Papa polacco ha posto il sigillo pontificio sul caso Orlandi? Sì. Ma questo è un fatto estremamente, sì, importante. Sì. Questo io non lo rivelo adesso, sì, ma verrà il tempo, io rivelerò con i documenti, con i dati di fatto, No, ora deve rivelare. Però scusi, signor Arcia, facciamo questo documentario, no? Magari ci sbattiamo pure noi per avere qualche produttore, qualcuno. Parenzo conosce un sacco di gente. Produttore, facciamo un grande documentario, lo no? Lo voglio produrre io. Sì, assolutamente. Veda. Tu sai, questa gente di spazzatura come Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, ma che c'entrano Bieber, questi? Eccetera. Che c'entrano? Basterebbe il loro guadagno di un solo concerto per fare questo documentario. E vabbè, quello è un altro discorso. Senta, cioè, lo sai, Parenzo, te lo ricordi quando fu catturato all'epoca con quei capelli neri? Adesso l'ho visto in qualche foto con i capelli tutti bianchi. Ma quanto è invecchiato lei? Cella d'isolamento. No, beh, certo, per carità. Quanto è invecchiato lei, signor Agcia? Ma non tanto, io posso correre 2 ore ininterrottamente. Ma sono forte e sano, grazie a Dio. Ma veramente lei sta dicendo corre per 2 ore di seguito? Sì, assolutamente. Sì. Ma fa pure le maratone? Fa anche le maratone? Sì, assolutamente. No, ma le fa le maratone o no? Sì, sono forte e sano, grazie a Dio. Non sono andato mai in ospedale. Ma c'ha la pancia adesso, no? Cioè, o è magro sempre? No. Assolutamente, sono un sportivo. Asciutto, capito? Ma segue un po' lui le dinamiche italiane. Che dici, Parenzo? Ma no, volevo capire se il signor Agcia ha seguito un po' le ultime dinamiche italiane. Ecco, sì, appunto, ma le piace qualcuno nella politica italiana? Segue la politica italiana? Ma non tanto, non chi le piace di più? Chi le piace di più? Ormai la politica italiana ormai al carro di chi? Dell'America e quindi della finanza internazionale, quindi Monti venuto per eseguire ordini della finanza internazionale. Pure lei contro Monti. Quindi mi sembra. Scusi, signor Agcia, ma Berlusconi le piace? Ma insomma, vorrei essere al posto di Berlusconi magari per avere tante belle donne. Pure le donne gli piacciono pure a lei, l'Islam, le cose, eccetera, pure lei. E come no? Ma se un uomo non piace una donna, ma va. Ma quante ne ha lei? Quante ne ha? È fidanzato lei, signor Agcia, oppure così si divide tra mille rivoli? È fidanzato, ce n'ha una oppure un po' così sbarazzino, diciamo. Ma comunque qualche ragazzo ce l'ha. Ce l'ha, assolutamente. Ce l'ha qualche ragazza. Sì, d'altra parte lì c'ha, se non ce l'ha lei, ragazzi, chi ce l'ha? Amico mio, se non ce l'ha lei le donne, ma chi ce l'ha? Ho capito, però è sempre il signore che ha fatto, io ricorderei che è sempre. Ah, una di 25 anni, appena ha fatto la rivelazione. Una di 25 anni, ma dai, ma quanti anni ha lei, signor Agcia? Non importa, io sono sempre forte, giovane e sano. Quindi non aspetti non un attimo e controllo. È del 58 lei, è del 58. Vabbè, non è che sia poi tanto anziano, Va bene. Senta una cosa, ma esiste una lobby gay in Vaticano, secondo lei? Ma in Vaticano esiste tutto di tutto, perché... Vabbè, ma esiste sta lobby di froci o no? Diciamola tutta, esiste sta lobby di checche, sì o no? Signor Agcia, su, diciamola, esiste... Non vedi tutti gli scandali del Vaticano, di pedofilia, di scandali di finanziari? Oggi è stato arrestato un vescovo, un agente segreto, un faccendiero per corruzione, concussione... certo, c'è di tutto di più in Vaticano. Ma secondo lei oggi è facile sparare al Papa, anche a questo Papa, no? Cioè rischia la vita oppure no? Ma perché? Spero, ma, no? Sì, è facile sparare anche a questo Papa, ma nessuno ha molto interesse. Quindi sarebbe facile. Come nessuno ha interesse? No, nessuno è come nessuno ha interesse. Qualcuno dice che rischia... Sì. Comunque, io assicuro il Vaticano che... Non ho nessun piano di uccidere il Papa Francesco. No, questo meno male. Questo dico, signor Agcia, meno male, ecco. Siamo rassicurati da questa cosa qui. Ma lo sai che è veramente è quello che ha sparato al Papa, ricordate tutti, però è una persona veramente simpatica, caro David. Però, ho capito. Cioè io lo inviterei ogni sera all'uomo che ha sparato. Adesso non è che puoi prenderlo come editorialista alla Zanzara, signora. E perché no? Ali Agcia. Non si sente, David, non si sente. No, ma dico, vorrei sparare al presidente Obama. No, veramente sta dicendo. Vorrebbe sparare a Obama. Come mai? Ma stiamo scherzando. No, vabbè, ho capito che lei quando scherza dice di sparare, non è proprio uno scherzo. Io non scherzi, ho capito. Cioè, se lo dice lei, caro Accia, non è che uno ormai sono passati quei tempi dei lupi grigi, eccetera, d'accordo, siamo d'accordo, no, però uno si preoccupa. Però lei ha detto una cosa interessante. Lei ha detto se uno proprio, per carità, non ce la curiamo, oggi volesse sparare al Papa, è facilissimo ammazzare oggi sto Papa, o no? Sì, lo farebbe assolutamente. Cioè, uno parla di sicurezza, cose, cioè non è cambiato niente dall'83, da quando lei ha sparato al Papa. Ma non tanto, perché se uno vuole farlo, potrebbe farlo. Quindi. Lo può fare tranquillamente. Però, naturalmente, questo è un Papa buono, nessuno se ne frega del Papa Francesco. Cioè, non conta un cazzo, dice ma lei. Nessuno se ne frega di nulla. Ma è un semplice parroco di provincia. Ma questo, da un certo punto di vista, non, ha tutti, non ha tutti i torti, però, ma signor Agcia è il numero uno assoluto. Ali Agcia. Secondo me fa bene rimanere lì in Turchia, non tornare in Italia, signor Agcia, perché dice non se ne dubbi. Ma vorrebbe tornare in Italia lei, signor Agcia? Certamente, io voglio ritornare in Italia per restituire la visita del Papa polacco. In che senso? Cioè, ho capito. Ma quello è morto, per però. Visitare la tomba di Papa polacco. Ah, appunto, sì, visitare la tomba di... Beh, questo, ma lei può tornare in Italia o no? O l'hai impedito? Non, veda, il governo italiano mi ha posto il veto, il divieto di entrare in Italia. Vabbè, non ha tutti i torti, insomma, non è proprio... Non sentiamo la mancanza del signor Acciaio d'Italia. No, io sento la mancanza invece, perché dici di no? Ma perché? Certo, io mi appello al governo italiano, al presidente Letta, lasciarmi entrare in Italia. Facciamo questo appello a Letta, sì, che ha tanti problemi da risolvere. Altrimenti io posso entrare in Italia clandestinamente. E beh, facciamolo insieme, io vengo con lei, l'accompagno io, caro Accia, su una barca della Turchia. Entrare clandestinamente, peraltro non c'è neanche una punizione di carcere. No, oggi leggiamo il nome dell'avvocato Taormina per seguire la pratica. Guardi, signor Accia, sia sicuro, se uno entra clandestino in Italia oggi se la cava tranquillamente, non succede niente, nulla. Io penso di venire in Italia. Va bene. Mi diano il visto. Grazie, legale. Grazie signor Accia. Un abbraccio fortissimo, direi, fortissimo, un abbraccio. È finito l'intervista. Se vuole ricominciamo dopo, tra un quarto d'ora se vuole, tra un quarto d'ora la chiamiamo, se c'è, se non c'è non c'è. Giornale Radio. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Allora, siccome quel pazzo di Parenzo ci deve salutare, appunto, dai. No, so che mi devi salutare, però omaggia il signor Ali Agcia, che da oggi diventa editorialista della Zanzara, no, su Radio 24. Sì. Non è possibile, non è una cosa eticamente valida. Ma perché non è eticamente valida? Uno che ha espiato la sua pena, il signor Ali Agcia. Sì, è vero, capito, ma non è che cosa ha da dire. Quanto ha fatto di anni di isolamento? 30 anni di cella di isolamento, mica poco, Ma no, ma assolutamente. Ma cosa ha da dire? Uno prende un ergastolano, però va benissimo, perché uno dice ospite fisso il signor Agcia. Senta, ma come si faceva col sesso in carcere? Come se 30 anni, una cosa tremenda. Ma no, non esiste proprio, perché io sono un idealista, un religioso credente, quindi il sesso l'ho dimenticato. Quando sono uscito l'ho dimenticato, l'ho represso, però adesso ho una bellissima ragazza. Quando sono uscito ho avuto la ragazza, qualche ragazza. Si è rifatto con gli interessi, diciamo, no? Possiamo dire così, si è rifatto con gli interessi. Senta, ma che ne pensa lei, per esempio, Parenzo, possiamo fare questa domanda, del matrimonio tra gli omosessuali? Guarda, io non voglio sentire su questo, perché lo devi chiedere al Papa Francesco, perché tu sai cosa ha detto il Papa Francesco. Che ha detto? Anche atei possono andare al paradiso, però il Papa precedente, il Papa Ratzinger, diceva che non possono entrare neppure protestanti e ortodossi al paradiso, ma insomma diceva che possono entrare al paradiso soltanto i servi del governo Vaticano. Adesso, allora, il Papa è fallibile o infallibile? Perché due papi contro l'altro, Ma che ne so, è infallibile profondamente. È infallibile nella Se il Papa è infallibile. Ma il Papa, i Papi sono falliti mille volte nella storia mondiale, quindi sì. Il Papa deve smettere, deve annullare questa menzogna primitiva del dogma dell'infallibilità del Papa, hai capito? Soltanto Dio è infallibile. Però la cosa più, la cosa più interessante per Enzo è che vuole tornare in Italia e noi lo aiuteremo. Io voglio ritornare in Italia, attenzione. Voglio incontrare anche con il Papa Francesco. Pure il Papa. Fraternamente, perché no? Sì, certo. Ecco, che cosa le piacerebbe fare? Tornare, per esempio, sul luogo del delitto in Piazza San Pietro? Le piacerebbe tornare proprio su quel luogo lì, in quel posto? Ma vede, questo non è un delitto, è un miracolo. Il terzo segreto di Fatima è stato realizzato. Sì, questo lei l'ha detto tante volte, però le piacerebbe tornare su quel luogo, nel luogo dove lei sparò al Papa? Assolutamente, vorrei lasciare la rosa bianca. Ah, una rosa bianca. Nel segno della riconciliazione con il Vaticano. Hai capito, Parenzo? Questa è una grande idea, una grande iniziativa della Zanzara, questa qua. Riportare Ali Agca in Piazza San Pietro, nel porticato lì dove è successo quello che è successo. Non so quanto sarà apprezzata questa iniziativa editoriale che stai lanciando. Comunque, senta, ma lei io saluto signor Agca senza abbracciarlo fortissimamente, che non mi sembra il caso. Va bene, va bene, signor Agca, la salutiamo forte. Ma quante volte fa l'amore lei durante il giorno? Lavoro? No, quante volte che lavoro fa, per esempio? Ecco, che lavoro fa lei, signor Cia? Ma guarda, io ho scritto il libro. Sì. Mi avevano promesso il paradiso. Sì. per denunciare vabbè, d'accordo, il fanatismo. Certo. Il fanatismo primitivo, sì. La barbaria del governo iraniano, del governo saudita. E quello lo sappiamo, mica si guadagna quei libri, però. Come campa lei? Ma non per guadagnare, per denunciare il fanatismo di questa gente. Appunto, ma lei come campa? Che lavoro fa lei? Ah, io ho qualche reddito, ho amici, parenti, in qualche modo. Non mi fa aiuto, niente, la mattina alla sera non fa niente, che fa? Come non faccio? Faccio sport. Appunto. Ho la mia ragazza, giriamo Istanbul, insomma, una vita... Tranquilla, diciamo, no? D'altra parte, dopo 30 anni di carcere, uno non è che può, no? Sì, certo. Non sì. È che si può spaccare la schiena, giustamente, no? No, certo. E quante certo. Volte devo, fa? Devo riposarmi. Quante volte fa l'amore lei con la sua ragazza? Ma insomma, no? Questo deve rimanere un segreto. Un segreto. Però secondo me non me la racconta giusta sulla politica italiana. Secondo me lei è un grande osservatore della politica italiana. Cioè, qualcuno le piacerà. Chi è il suo preferito nella politica italiana? Il suo uomo politico? Ma non voglio dire per adesso, perché non piacerebbe a qualcuno, piacerebbe a altri. Quindi non voglio dire vabbè. Faccio auguri migliori al popolo italiano. Vabbè. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Ciao Parenzo, ciao a tutti, ciao. Ciao. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. È la zanzara danza. Siamo qui con Daniela Santanchè, che dice tra 20 giorni nasce Forza Italia. Abbiamo oggi preso la decisione insieme al presidente Berlusconi che tra neanche un mese rinasce Forza Italia. Ma c'era che già sui noi, giornali. Sì, ma che nasce proprio adesso tra 20 giorni e che la nostra nuova sede appunto di trasferimento sarà Piazza in Lucina. Quindi in Piazza in Lucina le insegne saranno di Forza Italia. Di Forza Italia. Le insegne di Piazza San Lorenzo in Lucina, dove una volta c'era anche l'ufficio di Andreotti, se non sbaglio, saranno con Forza Italia. Quando arriva il mio abbandono. Ma vogliamo sentire, cari ascoltatori della Zanzara, le mirabolanti imprese dell'avvocato Carlo Taormina, ex appunto di Forza Italia, che si è scagliato ieri sera in maniera violentissima contro il matrimonio omosessuale. Sentite. professore, prego. Ma hai visto che è arrivato dall'America, sì, sui matrimoni gay? Una cosa pazzesca. Siamo tutti... è uno schifo, un autentico schifo. Perché uno schifo? Beh, vabbè, insomma, io sai, per proce e lesbiche sono sempre stato di una certa opinione, per cui credo che questo sia l'America che ha sempre esportato innovazione e quant'altro, ha esportato un cumulo di immoralità che... Una schifezza inaudita. Cioè siamo tutti froci, diventiamo tutti... Ma scusi, ma non ho capito. Come siamo? Una cosa è che ognuno si faccia i fatti suoi e non rompa le scatole alla gente e non modifichi la logica naturale che tutti quanti conosciamo. E quindi naturalmente in questo caso merita rispetto per quello, però, per come vive la sua vita, però non ci devono rompere i coglioni con il matrimonio. No, certo che sono. Ma non che rompe i coglioni? Non ci devono rompere i coglioni con i matrimoni. Ma rivendere un diritto, ma non certo. È rompere i coglioni. Ma non è un diritto, non è assolutamente. Ma tu, Parenzo, ma tu sei bagato in testa, io parlo del matrimonio, ma io sono bagato in testa, ma capisco che sei bagato in testa che è bagato in testa. No, Parenzo. Tanto per parlarci chiaro. Ma voglio dire. Il problema è molto serio, perché si creano delle immagini per la società, si creano dei... Ma quale immagini per la società? Dottor Parenzo, sappiamo le sue propensioni, quindi naturalmente ne abbiamo perfettamente conto. Ma non dica stupidaggini. Questa è la situazione, non dico stupidaggini. Se lei non si meraviglia, io mi meraviglio. Mi nascondo con le lenzuola. Ma la frase clou resta questa, una perla assoluta che resterà nella storia della radiofonia mondiale. Ma io sarò bagato in testa, andato a fischiare, se bagato in testa che bagato in culo, scusate. Ed il sonno poi mi ha... Preferisco essere bagato in testa che bagato in culo. Non vi scandalizzate, qui si parla in questo modo. 800 24 00 24. Carlo da Brescia, buonasera. Buonasera. Vada. Ah, io telefonavo per la richiesta di Ali Asha, che cercava un produttore, se volete, sono a disposizione. E lei io... che fa nell'esistenza, nella vita, caro Carlo? Io sono produttore e regista, io ho fatto il film La verità negata sul caso Moro. Addirittura? Sì, sono regista, Carlo Infante, regista del... Ah, come no, certo, conosco produttore. Bene. Cioè, conosco il nome, diciamo. Esatto, no? Sarei molto, molto interessato a finanziare il film di il documentario di Ali Asha, perché no? È una cosa da fare, infatti ho colto subito al balzo quella frase pronunciata da Agcia e adesso ci muoveremo nei prossimi giorni. Noi siamo a disposizione, ho parlato anche col tuo carissimo amico Danilo Amerio, che è anche il mio socio. Come il no? Quale è disponibile anche la colonna sonora. Vabbè, insomma, mettiamoci in moto per questa grande volentieri produzione della storia di Agcia. Grazie Carlo. Grazie. Antonio da Roma. Antonio, buonasera. Buonasera. Dica. Io invece, proprio per quel pezzo di trasmissione che riguardava Ali Asha e come l'avete accolto e la piaggeria con cui sì, lo avete... Sì, siamo servi di Asha, sì. No, non siete servi di Asha, avete semplicemente, è un mio parere strettamente personale, c'è un senso del limite. Ali Asha sarà stato perdonato, nessuno lo deve perseguitare, ma tradurlo in un personaggio come se avesse fatto chissà cosa mi ha estremamente indignato. E vabbè, lei sarà indignato, lei va benissimo. Ho chiamato solo per dire che questa cosa è vero. Caro Antonio, ma perché si è indignato? Di che cosa? Quello ha sparato al Papa, è stato tanti anni in galera, nessuno fa 30 anni in galera. Perché si è indignato con noi? Non ho capito perché. L'indignazione è questa. Ma perché si indigna con me perché io ospito Ali Asha alla radio? Intanto perché lo ospita, perché non è uno da ospitare. Ma figuriamoci, invito tutti i mostri possibili, qual è il problema? Allora faccio una trasmissione, questo riguarda tutti i mostri, ma li tratti da mostri. Ma a parte che no, i mostri è tanto per dire, tanto per inquadrarli. L'ha detto lei, non l'ho detto io, per me è un personaggio inqualificabile. Benissimo, tutti i personaggi inqualificabili vengono intervistati qui, molti personaggi inqualificabili. Ma lei quando parla con tanti altri non ha quella tendenza, quella piaggeria, quel gioco, come se fosse... Dipende, io sono camaleontico. Sono camaleontico. Ho capito. Camaleontico. Io sono camaleontico più di lei, però questo allora è un limite. Pure io, non è che siamo. Ho semplicemente detto questa cosa mi indigna profondamente. Ma poi, perché l'ha fatto il signor Agcia? perché il signor Hatzka ha sparato al Papa. E vabbè, pazienza, non è morto. Che vogliamo fare? Benissimo, allora questo significa che chiunque può sparare a chiunque. Dice, ma non ha detto questo, ha fatto malissimo. Ma ha fatto malissimo a sparare al Papa, ma che devo fare se ha sparato al Papa? Lei dovrebbe conoscere le conseguenze teratogene di certe cose che magari non stanno nella sua testa quando le fa, ma poi ce l'hanno certe conseguenze. Vabbè, senta Antonio, resti lì un attimo che ho la borsa. Ho la borsa, resti lì però, fermo, non si muova. La zanzara. Non ce la faccio, è più forte di me. Voglio rimettere la frase mitologica di Carlo Taormina, ex parlamentare di Forza Italia, avvocato impegnato su più fronti, alcune volte perdenti, nel campo appunto della difesa, della vicenda di Cogne, altre cose ancora. Così sui gay, sul matrimonio gay. Io a un certo punto gli ho detto: ma tu sei bacato in testa per quello che pensi? Sentite come mi ha risposto. Ma io sarò bacato in testa, la sapete se è bacato in testa che è bacato in culo, scusi. Geno Maggio lo stregone. E in questo modo battagliava contro la pornostar, ex pornostar Elena Grimaldi. Io volevo chiedere a Elena Grimaldi, sei favorevole Elena al matrimonio degli omosessuali, sì? Assolutamente sì. Capito? Assolutamente. Un cazzo di paese, perché negargli una cosa siamo più bella se macchia. Vogliono, vabbè, se stanno bene tra loro? Ma fate come cacchio volete, va. Se si ama. L'amore è bello perché è vario. L'amore è bello perché è vario. Sì. Quindi siamo noi per servietare delle persone di amarsi e di poter fare. Noi stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di un ordine sociale, che è una cosa. Ma quale ordine sociale? Dai, vabbè, lei non crede nell'ordine sociale, io credo nell'ordine sociale come espressione dell'ordine naturale. Professor Taormina, sai che la signora Grimaldi è stata in maniera diversa. Abbiamo capito. Mi rispetto, basta che rompano i coglioni a me, tutto qua. Lo sa che la signora Grimaldi. A me, per esempio, dover assistere durante a Roma o in qualsiasi altra parte, sì, a queste porcate dei gay pride, dove questi si vestono come si vestono, vanno girando in quel modo. Che senso ha? Mi dite che senso hanno questi esibizionismi? No, che cazzo di senso hanno? Questo vorrei capire. Se me lo può spiegare la signora Grimaldi. Lei che è la gente lo nasconde. Aspetti, signora Grimaldi. Scusi, ma lei che è diciamo così un'attrice, allora mi spieghi per quale ragione ci si debba periodicamente esibire in quelle porcherie sui carri in cui siamo tutti quanti dipinti con mezze cose di fuori. Libertà, si chiama libertà. Faccia rispondere, faccia rispondere, Taormina. Ma quale libertà? Ma la libertà è mostrarsi come porci, come fanno questi al gay pride, scusi. Ognuno è libero di fare, finché non fa del male, è libero di fare quello che vuole. Perché devo subire questa violenza di andare per le pedalie della città e trovare i carri con questa gente che fa schifo? Beh, un mito assoluto, siamo qui alla Zanzara, Luca Telese, ciao Luca! Eva Grimaldi santa subito! Ma la tu ti rendi conto o no che Elena Grimaldi era di una... Era, l'hai sentita, ma dovevi sentirla... La libertà, che bella quella frase, ma non potrebbe sostituire qualcuna delle moschette, delle ragazze moschette del PD? Sì, ma diceva semplicemente la libertà, invece anche le politiche del PD, cioè le politiche, le signore che fanno politica, scusa, le politiche, i politici femmine del PD dicono, beh sì, però poi l'unione... non va bene perché solo i diritti, invece dice semplicemente la signora Elena Grimaldi la libertà, capito? Ma è veramente una bella sorpresa, anche il tono diceva, come hai scoperto Eva Grimaldi? Elena Grimaldi, non è Eva Grimaldi, Elena Grimaldi, ex pornostar bresciana, ieri ha mandato l'altro ieri un tweet Eva. No, Elena Grimaldi è una delle più grandi attrici porno italiana, per 5 anni grande protagonista di film porno in Italia, che l'altro ieri ha mandato un tweet contro Berlusconi dicendo 7 anni finalmente ce lo togliamo dai marroni, eccetera eccetera, l'ho chiamata subito e ieri ha battagliato col professor Taormina. Come stai, Luca? Alla grande qui. Alla grande? Alla grande. Senti una cosa, ma la storia di De Gregorio, che ne pensi della vicenda De Gregorio? Sembra un convertito. Beh, hai visto, sì. Prima non se lo filava nessuno, gli davano No, ma lui ha avuto tutta una fase che sembrava controfigura di Al Capone, gangsteristico, no? Sì. Giocava col ruolo del cattivo. Prima adesso invece è esaltato dai giornali. Capitoliamo, sono i periodi come quelli di Picasso, prima la fase democristiano del sud che nessuno lo vedeva. poi ha avuto la fase di pietrista totalmente dimenticata, poi una fase un po' gangsteristica. Lui aveva fatto anche degli scoop da giornalista, poi è diventato il convertito fantastico, quando dice ho sognato mio padre. Io diffido di, se De Gregorio sogna il padre, io diffido. Sì, lui dice praticamente ho deciso di parlare perché mio padre in sogno mi ha detto di vuotare il sacco, una cosa pazzesca, dai, su come si fa? Ammazzo. Come si fa? Il padre che dice "Pentiti". Sai, hai presente quel bellissimo personaggio di quei Chi? Personaggi un po' di Brancaleone alle crociate, cioè quello che arrivava e vengo alla fine del mondo! E tu dici, ma vaffanculo! Antonio da Roma, allora che ci voleva dire Antonio? Senti che personaggi, Antonio. Antonio non c'è più, Raffaele da Milano. Buonasera, sono io. Dica. Volevo un vostro parere, guardi, sulla questione Berlusconi, la concussione, di tutto. Cioè, ho fatto una piccola riflessione di questo tipo, no? Ma in Italia, sì. In Italia, no? Mi chiami sì. Subito la crociata, perché sono sì. In Italia, no? Io conosco parecchia gente che parla di aver avuto delle raccomandazioni perché era a conoscenza di amici o di parenti potenti. Sì, che però Raffaele, fare. Guardi, io lei con me sfonda una porta aperta da questo punto di vista. Cioè, io penso che il processo a Berlusconi sia una buffonata. Sì, prego. Sì. Io penso che il processo a Berlusconi sia una buffanata, però non possiamo paragonare la telefonata di Berlusconi. Mi deve dire, mi deve rispondere. Vorrei sapere così capire una cosa semplicissima. Ma se un vescovo, se un sindaco, se un qualcuno che è, diciamo, dall'alto della sua possibilità, cioè diciamo nell'amministrazione pubblica, raccomanda qualcuno costringendo qualche subalterno ad assumere qualche suo parente o qualcosa, non è sempre concussione? No, innanzitutto bisogna, per fare la concussione bisogna essere in qualche modo ufficiali di no? Ma guardi, a Roma, io sono stato parecchio a Roma, sono stato parecchio in Sicilia, parecchio, e tutti mi parlavano, sai, io conosco questo, conosco sì, quello. Ho capito, però guardi, no, è la stessa identica cosa. Luca, guardi, glielo spieghi tu che non è la stessa cosa, al di là. Luca, spiega tu a Raffaele, un attimo Raffaele, Luca, spiega a Raffaele. Perché... Luca, spiega a Raffaele che non è la stessa cosa una raccomandazione e una telefonata, al di là di come finirà il processo, no? Ma poi comunque quella di Berlusconi non era una raccomandazione, no? Appunto. Persino la tesi difensiva dice che non è stata una raccomandazione, ma semmai una preoccupazione in quel caso. Si può difendere secondo... meglio Berlusconi, caro Raffaele? Si può impegnare di più, eh? Secondo, dicevi? No, dico, la cosa che mi colpisce è che, diciamo così, tutti i politici nell'esercizio delle loro funzioni, quando hanno mandato... elettivo e rappresentativo, sono pubblici ufficiali. I parlamentari che esibiscono il tesserino durante le manifestazioni sono dei pubblici ufficiali, mediatori, ma sempre pubblici ufficiali. Ma anche tu qualche volta sei andato, anche tu sei andato qualche volta con la Valtour? No. Con la Valtour? No! Ma perché a noi non ce li offro questi sconti? Perché non mi chiamano mai la Valtour? Cioè, ci sono anche giornalisti lì. Beppe Grillo, no, ma non solo Grillo, pure Marcello Sorgi, io so. 19.000 euro, poi Zac ne paghi 3.000 e ti porti gli amici, ti fai bene. Allora, le cose sono due, Luca, o non contiamo un cazzo, o non contiamo un cazzo. Quindi neanche a te. No, forse non contiamo un cazzo, oppure sanno che con noi non c'è trippa per gatti, che non ci andiamo, che ne so, chissà. Aspetta, tu saresti andato? No. Se mi chiama qualcuno e mi dice ti faccio uno sconto per un viaggio, non ci vado mai nella vita, ma nemmeno. Ma io sono attentissimo a queste cose, cioè sono molto attento a queste cose. Ma ti pare che io possa avere a che fare con la Valtour? Che dopo chissà che cosa si scopre, oppure qualcuno mi chiama, no, sai, dovresti fare, perché non ci fai un favore? Cose normali che avvengono nella normalità, ma mai, ma nemmeno uno spillo, nemmeno un pasticcino. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Oh, Paolo Cirino Pomicino, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Non c'è male, il venerdì sera si sta sempre meglio del lunedì mattina. Conosce il signor Telese, il signor Luca Telese? Luca Telese, come no, alla fortuna di aver impalmato una delle Berlinguer. Impalmato. Impalmato. Impalmato è stupendo. Però devo dire la verità. Impalmato è meraviglioso e non lo sentivo da un sacco di tempo. Io ho un linguaggio antico. Capito? Ma sempre Paolo, ma come fai? Ci conosciamo da anni, mo che c'entra mia moglie, la mia compagna. No, vabbè, io sono non te dici, io sono amico di tua moglie. Non è che t'ha detto, non è che t'ha detto che sei un criminale. Cioè, allora Cirino Pomicino, tenendomi in un angolo fra la mensa e il transatlantico, mi ha dato una volta una delle più grandi lezioni di politica della Prima Repubblica. Cioè? C'era uno di quei casini, ribaltoni, cambio di governo, Berlusconi che cadeva, eccetera, e lui mi disse, ricordati Luca, ora l'accento è maldestro, la Democrazia Cristiana aveva il 51% dei voti, ma voleva il 51%, più del 51% dei consensi. È vero? Sì, la verità è che in quell'epoca... per governare il 51% dei voti, diceva questi D'Alema, Berlusconi non lo capiscono, serve il 65% dei consensi. Quella è la lezione della DC. Beh, certo, e quella che in altra maniera si diceva, bisogna fare una politica estera per favorire una politica interna giusta, e la politica estera è un'alleanza più ampia per mantenere a bada un grande partito e le sue diverse sensibilità. Senta, Pomicino, Pomicino, però è complicato. No, ma Telese parla sempre del passato. A Telese piace molto il passato. Io invece voglio parlare del presente. Poi parliamo anche del passato per un'altra vicenda. Però il presente è questo, il ritorno sicuramente a Forza Italia. Che ne pensa lei? Forza Italia? Ma non è vero, ma come non è, non è vero? Come non è vero? Ma no, come no? È verissimo. Sto confondendo. Forza Italia nel 94 fu il parto creativo di alcuni intellettuali liberal democratici, sì, tra cui Antonio Martino, Antonio Marzano, allora? Giuliano Urbano, Lucio Colletti. Oh, mi dicono, leggo, poi non perciò dico se così è, non è vero, mentre adesso sembra che la cosa sia guidata o gestita o partorita da la mia amica Daniela Santella. Ah, lei dice non è vero che si torna a Forza. Ma di che parliamo? Sono cose diverse. Ah, profondamente diverse. Cioè lei dice quella è una cosa seria, questa è una mezza buffonata, questo insomma, la mia traduzione un po' terra terra. Quello traducete voi in un linguaggio loliardico, ma sono due cose serie, profondamente diverse. L'una era un movimento che bene o male, sì, nella crisi della politica ha saputo reggere in un determinato momento. Quest'altro ha la Santanchè come leader, su. Fuori è così, è una sorta di federazione del vecchio MSI e di un po' di radicali, ma che non hanno alcun senso. È il tramonto di Forza Italia, è il tramonto triste, peraltro, come ogni tramonto. Ma tu te lo ricordi, tu lo sai, Luca, che Pomicino in realtà fu quello che presentò la Santanchè a Berlusconi. Giuseppe, ma cosa mi hai scollegato? Aspetti un attimo, Pomicino, un attimo. Telese. Prima che Cirino Pomicino distillasse questo vaticino, io ti avevo detto attento perché sono a Forza Italia, lui ha avvelenato la Santanchè. Ho fatto il pronostico, ma non si è sentito. Ah, veramente? Sì, l'ho detto prima, ma non so perché non c'era l'audio. Ma scusi, cioè che lui un po' non gli piaceva questa cosa, perché la Santanchè ha annunciato che si farà in 20 giorni e appunto Cirino Pomicino ha raccontato che lui dava le ripetizioni di storia. Ma quale ripetizione? Io e di politologia la Santanchè. Cioè faceva il training alla Santanchè lei? Ma no, io sono... l'ha raccontato, siamo archivi viventi noi, è vero. Ma lo so bene, è così. Ma è così, Daniela Santanchè era così, anche se in realtà ha fatto qualche impertinenza, ma comunque le impertinenze si perdonano, in particolare da parte dei democristiani e dei cattolici naturalmente, sì. Ma Daniela Santanchè è stata guidata per qualche anno da Paolo Cirino Pomicino, che adesso dal sottoscritto, poi dopo la sua formazione politica, diciamo, è stata sottratta alle mie cure. Io non mi sono suicidato, per carità, un onere in meno, perché era un tormento ogni volta che c'era la finanziaria, dovevamo dettare, scrivere, fare tutta una serie di cose, e quindi voglio dire, mi sono alleggerito, però purtroppo la sua formazione e crollata. Ma questo mi dispiace, purtroppo. No, scusi un attimo, ma poi... è negata, diciamo, per questa. Giuseppe, dimmi, ma dimmi. Cosa daremmo per avere una foto di questa istantanea brugheliana qua? Cioè? Che leggono la finanziaria. È stupendo. Ma lei non c'ha le foto di lei che dà lezioni alla Santanchè, Pomicino? Ma non si dava la lezione, ma era giusto. Vede, ognuno di noi è stato giovane ed è stato peones. Anche la fanciulla era peones, era giusto che naturalmente chi aveva più esperienza potesse un attimo... Scusi, ma la Santanchè ha la statura da leader, secondo lei, la Santanchè? Beh, ma insomma, via, insomma, cerchiamo adesso di non offendere la Santanchè. Ma in che senso offendere la Santanchè? Perché voi non potete dire le bugie. La Santanchè, diciamo la verità, diciamo la verità. Ma no, ma può essere benissimo, diciamo lo è stata, certamente. Ma può guidare un partito, scusi, Pomicino, può guidare una leader della destra, lì andrebbe benissimo, per carità. Ma è fascista ancora, secondo lei, la Santanchè? Ma perché c'è bisogno di domandarlo? Cioè, è fascista? Lo è sempre stata, ma questo non è un'offesa, ci mancherebbe altro. Ognuno si sceglie la cultura alla quale fare riferimento. Mi domando se per caso va avanti questa vicenda di Forza Italia. Io sono un vecchio arnese, quindi faccio le cose da lontano, ma mi domando, ma come fanno i democristiani come Alfano, Fitto, Rotondi, Formigoni e chi più ne ha più ne metta a stare in un partito nel quale la guida è affidata a una persona che ha fatto quello che ha fatto nel 2008 quando si è candidato con la destra di Storace. Ma ripeto, questo mi è offesa, perché c'è una coerenza nell'ambito delle culture politiche, e la cultura politica di Daniele Santanchè, per sua ammissione continua, ma che io la conosco da quando teneva 20 anni, è vero, è stata sempre una cultura missina, ma missina è già un modo edulcorato. Addirittura fascista. Sì, lo è stato, lo è sempre stato, ma anche nei comportamenti. Ma che rapporto c'è tra la Santanchè e il Cavaliere, secondo lei? Non lo sappia io. No, che tipo di rapporto c'è? C'è un rapporto... Ma non lo so. Non lo so assolutamente. Daniela ha una grande capacità di plagio. Grande capacità di plagio, addirittura? Sì. Ma questa è una dote, non è mica... No. Cioè, ha plagiato il Cavaliere, secondo lei? Non so se l'ha plagiato il Cavaliere, no, ma ha una grande capacità di plagio. Peraltro, io l'ho vista all'opera ed era molto divertente da questo punto di vista. Per esempio, fu una cosa che io ho raccontato, l'ho messo in un libro perché era una cosa divertente. Lei una volta andava a una festa insieme in Sardegna, era presidente di una gara culinaria. Sì. E mi mise anche me nella commissione dove provammo delle schifezze allucinanti. Sì. E davanti a un piatto che io dissi: ma madonna mia, ma che cosa orrida! Ebbi un pugno dietro la schiena dalla Daniela Santanchè, perché era il piatto che lei aveva preparato. E secondo lei chi vinse quel premio? Il piatto che la stessa Daniela aveva fatto. E come mai lo vinse quel premio? E lo vince perché lei è presidente della commissione. Per il pugno. No, perché la presidente. Pigmalione! Pigmalione è un maestro di fair play, non può rinnegare il suo allievo, anche se non fosse bravo. No, ma io mica rinnego la mia lira. Io l'ho avviata a tentare di capire che cosa era la politica. Purtroppo, devo dire che mi sono fermato a solo. Dopo 100 metri. Ma ha fatto carriera però la signora. No, poi ha avuto altri maestri, ci mancherebbe altro. Ha avuto altri maestri. Poi ognuno insegna quello che sa. Dimmi tu e Cirino Pomicino, se questa riflessione che faccio metasessuale vi dà un'idea. Dimmi. No, ma quale metasessuale? Del pessimo. Aspetta, i colonnelli sono maschi. Obsoleto è un aggettivo maschio. E qui improvvisamente arriva Ruby, la donna dello scandalo, una pantera, è femmina, è il desiderio. Poi c'è Daniela, la corazziera, la Mazzone, è femmina, Forza Italia è femmina. Beh, no, capito? Ma Berlusconi se la prendeva pure con la sigla PDL, perché ricordava la PDL, per cui non funziona molto questa cosa. Io devo dire sempre, io in realtà ho sempre detto la PDL, probabilmente anche questo c'è stato un plagio subliminale, per cui il soggetto diventava sempre un soggetto femminile. E no, anche perché si parlava il del popolo delle libertà, come il movimento sociale, è più corretto non dire il popolo delle libertà. Ma lo sai che Pomicino voleva chiedere scusa alla Boccassini per un libro in cui era stato citato in tribunale, poi ha dovuto pagare non so quante migliaia di euro. Ma chi ha dovuto pagare? Ma chi? Non ha mai pagato lei? Io non ho mai parlato. Ma non c'erano 40.000 euro che doveva dare alla Boccassini? Io? Mai. Ma forse io non ricordo questo episodio, ma se l'ha fatto, l'ha fatto la Mondadori. Adesso c'è anche l'impegno rapidità. Va bene, abbiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. La Zanzara. Caro Luca, in questo momento impazza un grande duello in Italia. Il duello è tra Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, ormai come un bazooka spara su tutti, ieri qui alla Zanzara, innanzitutto contro Briatore. Ti ricordi del pranzo tra Briatore e Renzi, no? Ma come no, amore? Un grande pranzo soprattutto, ma che male ha fatto Renzi ad andare con Briatore a pranzo? Ha fatto benissimo secondo me. Secondo te no, vabbè, lasciamo perdere. Però, no, io non sono un purista, non ho capito se parlavano di campi da golf, di Africa, non ho capito. No, parlavano dell'Italia, del mondo, dell'esperienza di Briatore, e poi chi se ne frega di cosa parlavano, qual è il punto? No, ma il colpo basso è stato che tre giorni dopo Briatore ha dato l'intervista a Beatrice Borromeo, che ha detto che è pronto a iscriversi al PD. Quella è stata la coltellata nella schiena. Questo è vero, un po' è vero. Questo un po' e è lo vero. Sapeva, rideva anche lui, mi viene di dirlo, e zacca, ucciso. Senti, Cacciari, che ne pensa di questo pranzo? Ma un capone mega galattico, così, no? Cioè, universale, cioè, l'idea platonica del capone, lo considero. Un cafone universale, l'idea platonica del cafone. Dai, è stupenda questa. Viene da difendere Briatore, dai. Viene da difendere Briatore, è vero. Esiste, viene da difendere Briatore, bravo, sì. No, vabbè, dico, noi esageriamo, però. Aspetta. Ma perché a pranzo con Cacciari si può andare, a pranzo con Briatore no? No, ma hai ragione, aspetta. Io non so come una persona onestamente possa andare a pranzo con Briatore, con Berlusconi. Andare a pranzo con Berlusconi, se sei un leader politico, ti tocca, ma andare a pranzo con Briatore, perché scusa, se andare a pranzo con Briatore? Beh, caro Cacciari, però, perché fa l'imprenditore, no? Poi ieri non avevamo il tempo, eccetera, adesso poi ripensandoci, perché è un grande imprenditore, uno va a pranzo semplicemente perché, cioè, perché magari ti può dare qualche consiglio, no? Su come vanno le cose nel mondo. Non è che è vero, è un imprenditore del lusso, ma anche il lusso è importante. Poi senti lo scatenato su Brunetta. Poi questo Brunetta è inaudito, tutte le sfide che... tutte le volte che ha cercato di farsi normalmente eleggere è stato sconfitto. Due volte, mica una. Anche nei momenti di massimo splendore di Berlusconi, no? Oggi Brunetta gli ha risposto, invece Cacciari Cacciari si è dimenticato di dire, era un po' narcisismo, che una volta il candidato era lui. Cristiano da Milano, buonasera. Buonasera Giuseppe. Dica. Allora, io avevo tante cose da dire, ma un po' di argomenti sono già stati toccati, però mi ha fatto piacere sapere che sai di non contare un cazzo, quello mi fa piacere. E lo dicevo ironicamente, ma è anche la realtà. Ma qual è il problema, Cristiano? Sì, ma infatti mi fa piacere che hai ammesso una grande verità, quindi... Ma tu devi stare tranquillo, però. Ma io sono, infatti, anche la signorina Silvia e la signorina Micolo, gli ho detto che... Ma che c'entrano adesso la signora Silvia e la signorina Micolo? Appunto, perché sono state gentilissime a richiamarmi e tutto, ho detto che sono diversamente sobrio, quindi già quello ti dovrebbe far capire che... vuol dire diversamente sobrio? Che hai bevuto? Che hai fatto? Sì, certo, però non sono neanche raggiungibile dall'ambulanza, pazienza. E poi un'altra cosa volevo dirti, che sei camaleontico come un sacco scrotale. Come un sacco scrotale? Esatto. Come parli bene, Cristiano? Perché non lo dici in termini... Ma perché un sacco scrotale è camaleontico? Siciliano di origini, no? Non mi ricordo. No, non sono siciliano di origini, no. In Sicilia la chiamano la pallera. La pallera, sì. Camaleontico come le palle, comunque non ho capito qual è la cosa. Ma perché? Ma perché il sacco scrotale? Infatti, che sacco scrotale hai tu? Ma chi è? Telese? Sì, è Telese. Qual sì, è? No, no, ma è arrivata una certa ora alla sera, il sacco scrotale si gonfia, è pieno. Ma non è camaleontico, allora è multiforme. Multiforme, bravo, come dicevano anche il pentacatto monopalla. Allora, via, il Cruciani è volumetrico come un sacco scrotale. Vabbè, ma qual è il problema, Cristiano? Scusi, qual è il problema? Ma niente, mi ha fatto piacere poter intervenire, volevo... Ma non ha detto nulla lei, cioè non ha detto niente, ha detto che c'ho il sacco scrotale. No, voleva darti del sacco scrotale. Cioè mi voleva dare del sacco scrotale. Vabbè, ma ognuno si accontenta. Ma scusa, ma... Io sto accontentarmi di poco, visto che benissimo. Bisogna accontentarsi anche di poco, riesco a accontentarmi anche di poco. Però mi segnalano, Telese, che in realtà, Briatore, tu non ci hai manco voluto parlare ai tempi di pubblico. Chi te lo segnala? No, me lo segnala, non ti preoccupare, che tu in realtà... c'è sempre che stavo... No, devo dirti che Briatore fece una... disse una cosa abbastanza insolente, cioè un po' sprezzante, disse era il giorno in cui arrivò la notizia che chiudevamo e lui fece un tweet dicendo e beh questo è il destino che tocca, ma non se lo voleva comprare. No, lui fece questa battuta molto sprezzante, Briatore 1. Briatore 2 il giorno dopo fu assediato, diciamo, da molti redattori, disse ma non è giusto eccetera eccetera, e fu molto elegante perché si fece fotografare che aveva comprato 20 copie, per una settimana ha comprato 20 copie al giorno, quindi ha avuto un momento molto elegante, diciamo, cioè si è ripreso bene da una gaffa. Pomicino. Un attimo, sentiamo un attimo solo, sì è vero, con Anselma Dell'Olio Blob, sentiamo. È andata via, sì, era la mitica moglie di Giuliano Ferrara l'altro giorno da noi, Pomicino, dove si è scatenata. Senta, ma lei andrebbe a pranzo con Briatore? Ma io non vado a pranzo con un Briatore. Per cui che problema c'è se un politico va a pranzo con Briatore, come dice Cacciari? Che buon politico, innanzitutto, in particolare i cattolici vanno a pranzo sempre perché in realtà fanno l'offensiva di persuasione per reclutare anime belle. Per cui anche Renzi fa bene ad andare a pranzo con Briatore per reclutarlo. Renzi è un cattolico, un democristiano che per sbaglio sta là. Come per sbaglio? Che vuol dire per sbaglio? Beh, per sbaglio, perché siamo nell'ambito di una confusione politica dove nessuno più sa cosa è e dove deve andare. Ma perché secondo lei farà il capo della, diciamo, dei moderati Renzi? No, Renzi ha culture e radici democratico-cristiane. D'accordo, punto. Quello lo sappiamo, ma che farà? Sarà? Io spero che faccia il segretario del Partito Democratico. Il problema non sarà... Cioè lo voterà lei come... Cioè lo voterebbe come leader? Alle primarie. Sì. Ma non è detto che non mi iscriva al Partito Democratico. Come no? Beh, ma questa è una notizia. Pomicino iscrive. Pomicino Briatore. Faccio il pandanco Briatore. Cioè lei mi sta dicendo che per Renzi si iscrive al Partito Democratico. No, per Renzi, mo non esageriamo. Però si potrebbe iscrivere al Partito Democratico. Se vince sì. È un democratico cristiano e devo dire che nel Partito Democratico non c'è il rischio di ritrovarsi segretario presidente, diciamo, una persona come la mia amica Daniela. Beh no, nel PD no, nel PD no. Pinocchio la Santanchè è in ammirazione a Renzi e pronto a iscriversi al PD. Questa è una notizia. Cioè, se la Santanchè diventa la leader di Forza Italia. Ma non è guardate, non è Forza Italia. Vabbè, ma come dice lei? No, Forza Italia 2.0, Pomicino. Forza 2.0, cioè, vabbè, 2.0, vabbè, insomma, è una signora invecchiata che tende di imbellettarsi e che tende di ma purtroppo resta una vecchia signora. Ma perché invecchiata? Ma non è invecchiata. Ma questa è molto cattiva. Ma non è invecchiata. Ma non è cattiva. Una signora invecchiata che tende una cosa maledettamente seria. Ma perché invecchiata? È una bellissima donna. No, ma non la Santa Chiesa. Sto dicendo, ma non fate i tardi maledetti. Ma no, tanta cattiveria mi stupisce perché conosco la bonomia. La bonomia è un cattolico, è un democristiano per giunta. Come può essere? Scusi, ma di chi parlava quando parlava di invecchiata? Di Forza Italia. No, ormai ha trascorso di anni, ma ritornare ai vecchi fatti si trucca. E si trucca ma come si peraltro, trucca poi? In maniera rossolana si trucca. Ah, ecco. Pure? Beh, ma certo. Tutte le donne si truccano, ma ragazzi, quindi ma Santanchè non vi ricordate che addirittura non solo è faceva parte del team di Forza Italia all'epoca, Pera e Lucio Proletti. Sì, come no, certo. Voglio dire, bisogna dire, dare atto che dinanzi a quell'avventura del 94, fu capace di attrarre intellettuali. Pomicino, la domanda finale è questa: secondo lei la Santanchè si è rifatto o no? Ci vuole che ne sappia, ragazzi. Ma come, lei è stato il suo Pigmalione? Ride, a prescindere da reti professionali, io sono un medico, quindi appunto, appunto. Ecco, allora reti professionali alla quale domande impertinenti come le vostre, allora dobbiamo chiedere: si è rifatta bene? Politicamente non si è rifatta. No, ma si è rifatta bene o no? Ma ci vuole che ne sappia, caro Pomicino, la saluto e l'abbraccio. No, pubblicità, anche, pubblicità. No. Ciao, pubblicità. La Zanzara, caro Luca, Flavio Briatore. Aspetta, Flavio Briatore risponde a Cacciari, che qui alla Zanzara ieri lo ha definito un cafone mega galattico. 17 minuti fa su Twitter Briatore scrive: io sarò un cafone universale, lui un pirla nazionale che spande merda su tutti, lui è l'idea platonica di un fallito. Cazzo, se l'è presa Briatore, cioè, non è che l'idea platonica di un fallito. Però devo dire che io sono mi fa impazzire Briatore, a me mi fa impazzire perché chiama a un certo punto, scrive: followers, come state followers, no? Ti piace questa destra americana che in Italia non esiste, ma sarebbe bello se esistesse. Ma va, se si candidasse io lo voterei. Sei fuori. Sì. Senti, ma invece non volevo far sorvolare la cattiveria di chi? Di Cirino Pomicino contro la Santanchè. Sei fuori. Ma ne ha infilate tre una dietro l'altra. Ha detto: vecchia signora che si imbelletta. Sì. Che non è rifatta, poi non ha detto un'altra. No, ma la stoccata l'ha detta con Renzi, E che si trucca male. Si trucca male. Ha detto sì. Che si trucca male. A una donna le dice che si trucca male. Sentiamo qualche ascoltatore. Poi resta lì, che dopo abbiamo uno dei grandi protagonisti di questi giorni, il sindaco di Messina, il neo sindaco di Messina, quello che va scalzo in ufficio, Filippo da Reggio Calabria, sarà sicuramente il tuo mito. Filippo Pronto? Da Reggio Calabria, dica. Pronto, buonasera. Le volevo dire che sono schifato per le dichiarazioni di Cacciaro. Ma che ha fatto? Ah, tu non c'eri, Luca, è stato un intervento clamoroso. Alia Ciala Zanzara ha detto delle cose incredibili, Filippo. Anche perché mi ha fatto capire molte cose. Principalmente quanto sono coglioni gli italiani che abboccano a tutto. E poi mi ha fatto anche stare male, perché prima fumavo come un turco, ora ho raddoppiato. Vabbè, ma che c'entra adesso? Che volevo fare i complimenti a lei e al suo amico, siete molto bravi. Vabbè, Filippo, grazie. Claudia da Treviso. Claudia, che ce frega a noi dei complimenti? Non ce ne frega un cazzo, Filippo, che chiama a fare? Claudia, Treviso. Claudia! Vabbè, che stava facendo nel frattempo la signora Claudia? Pronto! Adesso, Claudia, deve spiegare a me, a Telese, cosa stava facendo. Io stavo pulendo casa. Sì, ma deve abbassare. Da 3 ore che sto aspettando. Brava, abbassi la radio un attimo, però. Scusi, abbassi la radio. Oh, benissimo. Parenzo, mi piacciono queste cose. Lo sai quanto mi entusiasmano queste cose, no, Davide? Che cosa? No, Luca, stavo parlando con Luca. Ti piacciono, signora? Sì, mi piace quando uno fa le cose per casa, ascolta la radio. Claudia, dica. Mi ero stancata, avevo il telefono aperto e la radio anche. Brava. Dica, signora Claudia, dica. Niente, io volevo intervenire ieri sera, poi non ho fatto niente. Vabbè, ma vada veloce, non si preoccupi. Volevo dire che qualcosa sulla prostituzione. Che vuole dire sulla prostituzione? Noi siamo a favore della legalizzazione. È ora di finirla. Con che cosa? È ora di finirla. Guardi che le puttane ci saranno. Per 30 anni ha parlato contro la prostituzione femminile. Chi? Adesso si vuole rimettere un'altra volta, si vuole aprire le case, si vuole. Ma dove stiamo andando? Torniamo indietro? Ma che torniamo indietro? Qui andremo avanti, bisogna legalizzare tutto. Legalizzare. Lei è giovane, va bene, però si deve dare una calmata. Ma in che senso mi devo dare una calmata? Scusi. Scusa, ascolta. Ma in che senso mi devo dare una calmata? Non la ho capito. Prostituzione, ognuno è libero di fare quello che vuole. Sì. Però. Però. però non devono chiedere di essere appoggiato dallo Stato. Ma no, dallo Stato. Lo Stato la deve punire la prostituzione. Ma quando mai? Sia femminile che maschile. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma che punire, signora? Ma devono pagare le tasse. Devono contribuire alla ricchezza del prodotto interno lordo. Come no, come no? Riprendiamo il discorso tra un attimo, perché abbiamo in collegamento Renato Accorinti, sindaco di Messina. Buonasera. Buonasera, ciao. Come stai? Come stai? Ti do del tu perché so che sei abituato. Sì, sì. Odi lei, sì, no? Sì. Odi lei. Ma, assolutamente. Ma sì. Come sei? Scalzo in questo momento, Renato? Sì, sì, ormai come carmelitani siamo. Ma scusami un attimo, però, Telese, spieghiamo questa cosa. Signor Accorinti. Sindaco Accorinti della storia d'Italia. Allora, io è dico... l'ultima eredità della Ferlinghetti Generation. Del 68, dici tu? Del 68. Bene, bene, sì, sì, sì. Va anche in giro con la t-shirt arancione col simbolo della pace. Io sono rapito da quest'uomo. Renato, ma come fai? Ma, trasferitevi, scusa. Trasferitevi a Messina. Ah, Messina, Messina, Messina. Giuseppe, ma l'hai visto che ha demolito l'ingresso del municipio? Ha distrutto una bacheca che bloccava la strada perché vuole le porte aperte. Ma che vuol dire porte aperte, Renato? Allora la cosa è molto interessante. Allora, qui al comune di Messina, per entrare c'era proprio un muro di vetro come un muro di Berlino, cioè entravi, dovevi dare carta d'identità, ti dovevi lasciarla, dovevi riempire un modulo e poi potevi entrare al comune. Tutto spazzato via, tutto spazzato via. Allora, l'avevamo promesso che era un'offesa proprio al diritto e alla dignità dei cittadini che si trovano di entrare nella propria casa, perché il comune deve essere la propria casa. Vabbè, c'erano anche motivi di sicurezza però, Renato. No, no, quali motivi di sicurezza? Qua non è successo mai nulla nella storia di questa città. Sì. Perciò sono puttanate, questo è chiaro, tant'è vero che in tutti gli anni passati non è successo mai niente. Mamma mia, io lo adoro, lo adoro anch'io, Telesi, io non sono di sinistra come te, però io lo adoro, anch'io adoro quest'uomo che scalzo, toglie le porte, magari fuma pure le canne o no? Fuma le canne o no lei? No, no, non fumo neanche le sigarette di nessun tipo perché proprio... Mai fumato una canna? Mai fumato una canna in vita sua? No, no, no, perché no, devo dire due virate... in India, a Benares, proprio in un momento di conciliazione con dei sadhu, l'ho fatto, però... Con chi, scusi? Con conciliazione? I sadhu sono i santoni indiani. Quando stava con i santoni indiani si è fatto una canna? E diciamo che è stato un passaggio di una bella canna che era della pace, allora una tirata anche... che io non ho mai fumato in vita mia, l'ho fatto per un fatto di stare assieme, tutto qua. Di stare assieme, però com'è stato? Com'è stato? Non ho mai fumato. Abbiamo visto il paradiso. Un attimo solo, traffico, torno subito da lei. La Zanzara. La Zanzara è quell'odioso insetto. Sentite un po' dove spunta questo imbecille di Parenzo. Emozionata l'idea dell'incontro, ma no, io non ho capito bene l'obiettivo. Cioè non ho capito se Laura si chiama? Laura, sì. Se questa Laura in realtà ha l'obiettivo di riconquistarlo oppure se è semplicemente emozionata per il fatto o per l'ipotesi di poterlo incontrare. Io questo non ho capito. Ma sai, a distanza di un anno si può cambiare molto, si può, come per esempio con i governi, si comincia all'inizio che ci si vuole bene, ci sono queste larghe intese che funzionano, poi dopo qualche mese si è cambiati e non funziona più. Quindi dici un po' come col governo Monti, all'inizio erano un po' tutti innamorati. Poverino, 800 24 00 24, siamo con il sindaco di Messina, Renato Accorinti. Come si fa ad essere anarchici a fare il sindaco? Perché l'anarchia non è una cosa contraddizione con le nostre istituzioni, perché vogliamo gestire una cosa in una massima libertà. Guarda, lo sai perché finora le cose non sono andate per il verso giusto, non solo a Messina, ovunque. Cioè ci vorrebbe perché più anarchia in Italia, secondo lei? Sì, sì, ci vorrebbe proprio più anarchia, un'anarchia quella là della libertà mentale. Cioè? Guarda, la vera anarchia è anche che si avvicina a proprio a una vera democrazia, cosa che non c'è mai stata, è la partecipazione. È la partecipazione e l'appartenenza al territorio. Normalmente la gente viene eletta per avere potere e non per servire. Guarda che in questa città... Ma tu a quanti soldi rinuncerai? Io continuerò ad avere solo lo stipendio di insegnante, non voglio cambiare la mia vita, non voglio avere un centesimo in più. Cioè, quanto prendevi politica, prima, no? Per farmi i fatti tuoi, Renato? Sì, tanto, no, no, i fatti miei devono essere di tutti. Guarda, più o meno intorno a 1,7, 1,750. Cioè, 1750 meno. Euro e resterai, sì, con 1750 questo. Euro. Ma porterò il mio proprio. Prendo proprio lo stipendio, lo porto qua, il cetolino, e lo do qua all'amministrazione. Voglio solo quello che avevo prima. Senti una cosa, ma Renato, ma sulle coppie gay, perché non facciamo un bel a Messina, un bel come si chiama? Non si può fare ancora, perché ovviamente i comuni non è che possono sposare gli omosessuali. Non possono decidere, questo è chiaro. Un po', però la facciamo un bel libro, come si chiama? Un matrimonio finto, su. Ma questo possiamo anche farlo, non è che siamo qua, questa è anche la nostra posizione, ma non è la cosa più importante. Cioè, diamo le case anche alle coppie, diamo le case comunali anche alle coppie omosessuali, no? Ma sì, guarda che abbiamo qua appunto questa apertura mentale per andare oltre, e la cosa, guarda, veramente più interessante è quella che abbiamo, te lo dico, è un'evoluzione straordinaria, quella che abbiamo veramente coinvolto la popolazione. Qui, no, ma questo d'accordo, questo si capisce anche da quanti voti hai preso, però voglio capire, lo facciamo un libro per le coppie? No, ma per strada la gente ci ferma, sì, e vuole proprio partecipare. Noi abbiamo la nostra lista, ha come slogan "Cambiamo Messina dal basso", guarda, veramente è una cosa meravigliosa. A proposito, ma tu scusa, ma anche per strada, cammini senza scarpe o no? No, questo ovviamente solo in no. Ufficio, solo no, in ufficio. No, ma questo l'ho fatto nell'entrata qui al comune per dare un segno che veramente che quello che faremo è nel segno dell'umiltà, nel segno della semplicità, e questo era un segnale così visibile. Senti, ma se non succederà, ma se mettessero una pietra del ponte, tu che fai? Ti incateni davanti alla... Ma questo, guarda, non se ne parla neanche. Vabbè, d'accordo, metti che succede, che fai tu? Che fai? No, ci opponiamo in tutti i modi, anche fisicamente, certamente. Cioè, anche fisicamente? Sì, faremo l'occupazione di tutto, abbiamo lo stretto. In questo, guarda, che non siamo qui a giocare, No, che ne so, io ho scritto pure un libro. L'ho fatto per 40 anni, poi che non lo faccio da sindaco. No, perché abbiamo tutta la popolazione dalla nostra parte. E che ne so, abbiamo la popolazione. Opposizione anche con la violenza. No, quale violenza? Guarda, io ho fondato negli anni 70 una sezione del movimento non violento. Proprio fatto da Aldo Capitini, sì. Proprio, e in questo siamo molto severi. E la non violenza non è che è un... Senti, gioco. Renato, anzi, Renato, siamo ma molto severi. Ma per te il Vaticano che cos'è? Ma il Vaticano è uno stato tra i più potenti e condizionanti della nostra anche nazione, purtroppo. È un centro di potere pazzesco, diciamo la verità. Di potere pazzesco, diciamo con tranquillità. Ma cioè, se non ci fosse, sarebbe meglio il Vaticano. Se non ci fosse lo Stato Vaticano, sarebbe un bene per l'Italia. Hanno un po' tradito quello che invece la radice cristiana. Questo senza dubbio. Sulla cristianità, chiaramente. Vabbè, quello è un altro discorso. La cristianità è un altro discorso. Perché è una grande rivoluzione. Ma la facciamo una bella moschea a Messina o no? La facciamo una bella moschea di cambio culturale e poi diventa politico. Scusami, poi ti lascio, Renato, ma la facciamo una bella moschea a Messina? Ma forse parole nuove che normalmente la gente non ha, la politica non le ha mai utilizzate, perché non hanno assolutamente il rapporto con lo spirito e con la cultura. Tu sei buddista, no? Tu sei buddista. Quello che hanno fatto distanziare le persone dalla politica, che è il bene comune. La politica è la cosa più spirituale che può fare l'essere umano. Sì. Veramente. Lo diceva, guarda, ecco qua, Ciro Paolo VI, che diceva che è la forma più alta di carità. Se non ci fossero i cardinali, sarebbe meglio, no? Abbiamo parlato con le frequenze, siamo arrivati alle frequenze del cuore e dell'anima. Per cui a mani nude, penso un po', qui contro i potentati, questa è la città più difficile. Qua c'è mafia, 'ndrangheta, massoneria, traffico di armi, di droga, la mafia barcellonese, c'è di tutto e di più. Sì. E noi qui a mani nude abbiamo sconfitto totalmente quello che erano delle porte aeree con le testate nucleari e noi senza nulla. Guarda che veramente parlate di noi perché siamo stati sempre veramente messi da parte anche dalle nazionali. Qui abbiamo fatto veramente più che rivoluzione, è un'evoluzione della politica. Renato, è una cosa bella, che la gente ci ferma per strada e vuole partecipare alla vita collettiva. Renato, pensa che fra poco faremo un piano sulle spiagge, sulla pulizia. Sì, ho capito, ma ti posso chiedere una cosa, ma fosse per te il Vaticano dovrebbe essere eliminato come hanno centinaia di persone che ci hanno chiesto e altre volte di istituzione. Stiamo facendo una cosa. Non si capisce più niente, vabbè. Arrivederci, ciao Renato. Arrivederci. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Barbara da Latina, buonasera. Buonasera, senta, io vorrei chiedere agli ascoltatori pseudo ben pensanti, cattolici. No, fammi sentire un attimo, scusami Barbara, mi scusi, sì, dove è finito l'imbecille di Parenzo? Si dice le 5 cose da sfoggiare per fare bella figura in spiaggia. Vabbè, non c'entra niente. Allora, Barbara? Ecco, vorrei chiedere a questi personaggi che chiamano e che si, rimangono indignati di fronte a matrimoni gay che oramai sono stati anche sdoganati in America, quindi faremmo veramente presto a farla finita con queste cazzate. Quindi se vedono due omosessuali, sia donne che uomini, passeggiare per strada, si inorridiscono al pensiero che un uomo magari possa penetrare l'altro uomo e magari due donne anche. No, ma non ho capito niente, scusi Barbara, me lo può ripetere un attimo? Allora, è molto chiaro il concetto, sintetizzo. No, allora, non è chiaro. Va bene, allora cercherò di essere più sintetica. Allora, chiedo a questi ben pensanti pseudo cattolici a questo punto, che si indignano al sol pensiero di vedere due uomini che si baciano per la strada immaginando un eventuale rapporto sessuale, ci siamo finora, sono abbastanza, perché il pensiero è un po' contorto, però finora ci sono. Ma a me non piacciono i pensieri contorti, Barbara. Allora, no, non capisco a chi si schifa, a chi si schifa, scusi un attimo, a chi è schifato perché vede due froci che si baciano per strada? Vorrei fare questa domanda. Ecco, vorrei fare questa domanda. Faccia la domanda, però. Un nonno sulle porte degli ottantenni che si ponicia una ventenne al parco, che sensazioni desta? Vabbè, passiamo oltre. Borsa. La zanzara. C'era una volta Parenzo alla radio, lo potevi sentire dalle 18.30 alle 21, qui sulle frequenze di Radio 24, durante la nota trasmissione La Zanzara. C'era una volta, cari ascoltatori, una voce radiofonica forte, vibrante, controversa, ma viva, vegeta. C'era una volta un combattente. Ora abbiamo solo, quando lo abbiamo solo un cadavere, una larva, l'ombra di se stesso. A un mese dal suo decesso, a poco più di un mese anzi, dal suo decesso, dalla sua morte radiofonica, lo ricordiamo così. Riccardo da Roma, 800240024, Riccardo, vada! Pronto? Sì, dica. Mamma mia, stasera proprio palle cadute per terra proprio. A parte un'ora prima di parlare. Poi una trasmissione dove i comunisti se la suonano e se la cantano da soli. Parenzo, che è una testa di cazzo, ma a livelli incommensurabili. E Cruciani, mi dispiace dirlo, fino a qualche anno fa l'ascoltavo, ma è diventato un lecchiaculo dei comunisti, pure lei. Una cosa vomitevole. Ma comunque continuate così, continuate così. Continuate così, perché prima o poi scoppierà una guerra di piazza, perché in un paese di merda come questo, dove il capo dell'opposizione viene messo in galera con un pretesto, no, veramente non è in galera, sono vent'anni, mo ci sarà in galera, non ti preoccupare, che mo ci ho messo in galera, lo so persino io. perché ti droghi? Fatti di metadone, non drogarti, fatti di metadone, non ti devi drogare, ti distruggi. Ma chi è? Guarda come ma chi sei ridotto. Che parla, coglione, ma che cazzo parli, pagliaccio, stai zitto, tranquillo. Zitto, comunista, prendi i soldi stia dal tranquillo, PD, stai stia zitto, tranquillo. Tu prendi i soldi dalla sette, dal PD, vabbè, che c'è? La rete di Telecom Italia Media, allora la Telecom, problema. I soldi del PD, poi ti un sacco di cazzate, le visite fiscali in Italia non funziona un cazzo, le visite fiscali sono la cosa che funziona di meno. Io posso garantire che lavoro in un posto dove ci sono centinaia di dipendenti pubblici, centinaia, tutti malati, nessuno gli mandano la visita fiscale, nessuno, quindi non dite cazzate, smettetela. Questo è vero, questo è vero che non la mandano. Disinformazione, i dipendenti pubblici non fanno un cazzo. Ma due ambulanze, ma come se lo prendere per il culo solo da una parte? Fai parlare. Ma dove lo trovi il crack? Ma dove lo trovi il crack? Pagliaccio, pagliaccio, tu devi tacere. Prendi i soldi di Telecom Italia Media e taci. Prendi i soldi lì dalla trasmissione cortelese che fa il Pinocchio col microfono in mano, la R-Moscia, stai zitto, apri la decenza di stare così. Io sono schierato, io ho votato Berlusconi, sono un elettore di centrodestra, sto legittimamente manifestando il mio disappunto perché il leader del mio schieramento rischia di andare in galera e la reputo una cosa rifilata in un paese democratico. Ma non ho paura di dirlo, non ho paura di gridarlo a microfoni. Recupero. Invece tu, devi andare tu, prezzolato, immediatamente. Prezzolato fazioso, non hai neanche le palle di dire che sei del PD. Cioè lo sei, ma non lo dici, c'hai la foglia di fico, vergognati, vergognati. Ma tu sei strafatto, non andare in giro così, sei ma strafatto. Ma tu sei un coglione, io sono strafatto, ma tu sei un coglione. Ma sei pericoloso per te e per gli altri, ti ma che cazzo dici? Ma qua l'unica persona pericolosa sei tu che c'hai un microfono in mano e dici stronzate di fronte a milioni di persone, tu disinformi la gente, coglione, coglione. Ma che, ha detto? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che vuol dire? Testa di cazzo, ma non lo vedi che è tutto palese, che è tutto palese. La visita fiscale pure Parenzo, io ho lavorato in tante ditte private, sì, posso dirla. Dire che la visita, ma quale cazzo di ditte private hai lavorato tu? Ma non la mandano a non la mandano, non la mandano a nessuno la visita fiscale. Ma che visita fiscale, ma tu lavorare un giorno in vita tua? Perché se tu lavorassi veramente, se sapessi che vuol dire guadagnarti il pane col sudore della fronte, di fronte a comunisti di merda che bruciano i soldi pubblici, lei, con le intercettazioni del cazzo, con i processi, con i milioni di euro che la corruzione cazzo di legno a Napoli lì, a Riccione cazzo di legno che fa l'inchiesta sulle veline, ma perché centinaia di milioni di euro buttati nel cesso di soldi nostri. Ma perché nostri? Ti alzi la mattina? Perché sei un tema, di giorno. Un tema tu caso, ti alzi la mattina e in America è licenziata, licenziata. Parenzo, mamma rispondi. Mia. Ma preso, mamma mia, poveretto, è un tema di giorno, che mi la mattina. Di finire nel mirino di uno di quelli tipo la Boccassini o Henry John cazzo di legno, ecco, finisci nel mirino di uno di questi che ti prende di mira e ti comincia a cagare il cazzo come hanno fatto con Corona, con Emanuele Filiberto o qualcuno, e improvvisamente domani questo si sveglia e decide che ce l'ha con te, sei finito. Poi mo viene a raccontare la visita fiscale, l'uveite, le minchiate, le mignotte, poi me lo dice. Dire che Henry John cazzo di legno è un mito totale, inarrivabile. Henry John cazzo di legno, Riccardo da Roma. Purtroppo sì, lo ricordiamo così, lo ricordiamo Battagliero quando rispondeva: ma sei strafatto, sei drogato. Intanto Berlusconi, pochi minuti fa. Popolo della Libertà resterà come coalizione dei partiti del centrodestra. Forza Italia ne farà parte e io temo che sarò ancora chiamato ad essere il numero uno. Temo che sarò ancora chiamato a essere il numero uno. Roberto, provincia di Chieti. Pronto, sono in diretta? Fino a prova contraria, sì. Oh, signor Cruciani. Buonasera, dunque, buonasera. Io volevo parlare, interloquire un attimino con lei. Prego. Lei, secondo me, non può permettersi di definire il processo Rudi come una buffonata. Come no? Ma io non solo me lo permetto, ma lo ripeto 100 volte. lei non è un esperto di diritto, ma come chi non se lo ne frega, neppure io non lo so, ma lei sa cos'è la concussione? Guardi, qual è l'articolo del codice penale che tratta questo argomento? Sì, ma glielo posso dire tranquillamente, non è un problema. Allora, se non è un problema per lei, allora io voglio dirle questo, che dobbiamo avere fiducia nella giustizia, perché questo è uno stato di diritto. Roberto, io ho tutto il diritto, per fortuna, no, per lei, fortuna, lei per può fortuna. Non definire il processo Rubbia una buffonata. Secondo me è una buffonata. Io continuo a dire che è una buffonata. Portare in tribunale Berlusconi ed altri per una cosa di questo tipo rimane per me una buffonata. Poi allora, il giudizio politico sul Berlusconi frequentatore di donne eccetera eccetera è un altro discorso. Si tratta di un reato. Sì, vabbè, trattasi di un reato, questo lo sappiamo. Lei sta dicendo una cosa scontata. No, scapese quante ne dice lei di cose banali. Probabilmente sì, lo sto dicendo a lei, che in questo momento sta dicendo una cosa banale e scontata, che bisogna guardare i reati. Beh, certo, lo sappiamo che i giudici mettono è un reato, questo lo deciderà ovviamente la Cassazione in ultima istanza. Ci è stata già una sentenza di primo grado, tre giudici, tre magistrati, sì, nella benissimo, loro autonomia, ma lo sappiamo questo. Hanno emesso una sentenza, lei la deve rispettare, non può permettersi, anche se adesso mi risponderà che lei si può permettere di dire qualsiasi cosa, ma per fortuna, per fortuna, non è una buffonata. Secondo me sì, è una buffonata. Se viene meno, se in uno stato di diritto si comincia a Senta, io non sto dicendo che i giudici sono dei buffoni, più in uno stato. Ma io non ho detto che i giudici sono dei buffoni. Non è più una democrazia. Roberto, io ho detto un'altra cosa. Io ho detto che secondo me mettere su un processo per una cosa di questo tipo, per la frequentazione dei giovani, anche se una minorenne di 17 anni. La realtà, qui il processo non si basa su quello che hanno fatto dei giovani, la concussione riguarda l'uso illegittimo aggiungendo, che ha fatto stavo aggiungendo Berlusconi, anche la concussione. Ha telefonato 7 volte in una notte quando era a Parigi stavo e aggiungendo fare la i concussione degli italiani, sì. Invece cosa fa? Pensa ai fatti propri. Perché? Perché sapeva benissimo che Rubi non era la nipote di Mubarak e sapeva altrettanto bene che si trattava di una minorenne. Benissimo, no, Roberto, quindi, questa è la sua idea. Cosa fa? È lì la concussione. Benissimo. Non stiamo sì, ma non faccia la Boccassini 2, perché no. l'abbiamo già sentita la Boccassini, no, non c'è bisogno. No, Cruciani, lei a me non mi frega. La concussione è un reato che va punito tra 4 e 12 anni e prevede una pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficiali. Ma lo sappiamo benissimo, questa Roberto. È la legge, e la legge vale per tutti. Benissimo, bravo, quindi applausi. Il disvalore commesso, la concussione viene così perseguita in maniera anche un po' esagerata come anni di reclusione, proprio perché il disvalore sociale è molto più forte rispetto alla ma qual è il problema? Che problema ha lei? Non ho capito. Io non ho alcun problema, io dico semplicemente che lei è un giornalista e che quindi contribuisce a formare l'opinione pubblica e che lei non ha il diritto di dire che il processo Rubi è una buffonata, perché la concussione Vabbè. Non è affatto Benissimo. Una buffonata. Per fortuna che io non dicevo che la concussione in generale è una buffonata, sto no, dicendo lei parlava del processo Rubi. E secondo me sì, Rubi cosa vuole che le dica? Due capi di accusa. Oddio mio, non ho detto che in generale è una buffonata, ho detto lei che in questo detto, caso è una buffonata. Allora mi risenta la trasmissione. Io ho detto che in questo caso per questo motivo, perché lei ha definito il processo Rubi una buffonata. Va bene, grazie Roberto. Il processo Rubi si basa su due capi di accusa. Oh, mamma mia, ma è arrivato prostituzione. La concussione, a me della prostituzione minorile non me ne frega niente. Ecco, bene. Se è arrivato il maestro, mignotte, fa quello che vuole. Però la concussione è un reato gravissimo. Bene, grazie Alberto da Vicenza, grazie Alberto da Vicenza. Cruciani, buonasera. Buonasera Cruciani, finalmente. Allora, a me delle scopate di Berlusconi non me ne frega proprio niente. Sì. Però sono rimasto male. Ce l'ho ancora sullo stomaco tutto il palco che questa sera avete costruito a quel sacrilego lì che doveva essere già bruciato a suo tempo, Dio buono, ma come si fa a quasi a è giù con la bestemmia, è giù con la bestemmia pure lei su sacrilego e poi lei tira giù la bestemmia, ammazza Alberto, che bella ma coerenza cosa, che bestemmia ho detto, che cosa beh detto? Dio buono è un'imprecazione diciamo, no? Dio buono con tutte le parolacce che sento dire da voi. Dio buono, lei si ma io non ho detto niente, infatti, mica mi sono arrabbiato io, sono stato ma tranquillo. No, dai, lei è un guarda, io se lo prendessi vicino le prenderei, io darei 4 cazzotti, perché qualche volta mi fa proprio arrabbiare. Però ma chi, a me? Stasera, a me? Stasera ha esagerato, cazzo, con Acciani, vero o no? Ma perché? Che è successo? Che è successo con Acciani? Ma lei addirittura ha detto che va là a prenderlo, aiutarlo, torna qua. Se torna qua lo riempiamo di botte, glielo dico io. Un attimo, aspetti, aspetti lì, Alberto, traffico. La Zanzara. S'approcio e me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è. Il mitologico professor avvocato Carlo Taormina. Ma io sarò pagato in testa, andato visto che sei pagato in testa, che pagato in culo. Davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva al mare, spediti in esilio. Per esempio, i gay pride mi fanno veramente schifo. Non ho capito per quale ragione si debba fare questo esibizionismo che non ha, che non ha senso. Ma pure se, se due froci si baciano per strada ti fanno schifo. Beh, insomma, sì, mi fanno, ti fanno schifo, ti fanno schifo, capito, perché non mi devono far schifo? Non ho capito. Ma dai, su, dai. Ma scusate, ma la natura qual è? La natura qual è? Ma che c'entra la natura, su? Ma come che c'entra la natura? Io ma, dico, ma tu sei bagato in testa, professore, sei bagato in testa. Ma chi se ne frega? E io ho detto, meglio bagato in testa che bagato in culo. Allora, voglio dire questo, io sono di questa opinione. Ognuno fa come gli pare, si comporta come, però, come meglio crede. Però a casa sua. Noi abbiamo una, abbiamo a casa sua e anche fuori casa sua, perché ma siamo al medioevo. Ma non me ne frega niente del medioevo, non è che cambia. Ma se qualcuno ci prova con te, che fai? Scusa. Come ci prova? Come ci prova? Manda a fanculo, che devo fare? Non ho capito. Problema, cioè, mettiamola così, soprocio e me, perché sei meglio te, se ne sei tanto convinto almeno spiegami perché. Ma io non posso avere che la, mia libertà, che si la mia libertà di dire che i gay pride mi fanno schifo, o che due persone dello stesso sesso che si baciano. Ma pure i matrimoni ti fanno schifo a te. Pure i matrimoni ancora peggio, perché sono, rompono l'ordine sociale che io ho in testa. Ma che ordine sociale, dai? Tu sei bagato in testa, sei bagato in testa, dai, sei bagato in testa. Meglio bagato in testa che bagato in culo, come già vi ho detto, almeno questa è la mia opinione. Poi se voi la pensate diversamente, ma non è da fare, ma non troverete sicuramente un buon mercato. Oh, c'è un'associazione che si chiama GaiaItalia.com che scrive: Urbi e Torbi, il conduttore della Zanzara sta chiamando i gay froci dall'inizio del programma, si può chiedergli di smetterla? E no, cari amici di Gaia.Italia, io sono favorevole ai matrimoni gay, all'adozione gay, a tutto quello che vi pare, ma io chiamo i gay, gli omosessuali, anche se è brutto classificare in questo modo, come cazzo mi pare. Avete capito? Sia chiaro, eh. Se voglio chiamare frocio qualcuno, siccome non sono omofobo, lo chiamo. Allora, Alberto, che vuoi ancora? Allora, io non voglio niente. Va bene, quello che ha detto ultimamente sono d'accordo anch'io. A casa mia faccio come mi pare, basta che non do fastidio al vicino. Oppure basta che il vicino non mi rompi i coglioni a me, capito il discorso? E beh, allora che c'entra? Ma pure sui gay? No, vabbè, no. Pure sui gay, pure sei contro pure i gay tu? No, ma che me frega a me dei gay? Ma che me ne frega a me dei gay? Figurati, no? Se non mi fregava delle scoparte di Berlusconi, non mi frega neanche dei gay, no? Però voglio dire, a me va bene, non mi va bene quello della CIA. Ma che ti frega a te di Aliag Cha? Perché sei così avvelenato con Aliag Cha? Aspetta un momento, ma scusa, la mia generazione ci hanno insegnato di vedere il Papa come una cosa suprema, là, bello, sull'altare, in cima, una cosa sacra, e questo gli ha sparato. Ma stiamo scherzando? E allora? E allora bisogna... Vabbè, ma questo qua subito. Ha fatto 30 anni di galera, oh! Ha fatto 30... No, lui doveva stare bello là dentro fino a quando aveva vita, là, all'ergastolo doveva stare. All'ergastolo, adesso all'ergastolo. Ma signori miei... Ma dai, su, ma dai! Non ha mica ammazzato. Vabbè, Vanni da Firenze. Vanni, buonasera. Ciao Cruciani. Vai, parla. È sempre su Accia. La stessa cosa, però, insomma, sembrava avessi Nino D'Angelo a telefono e non Accia. L'hai trattato molto, in maniera molto accomodante, ti dico la verità. Non ho capito, scusa. L'hai trattato in maniera molto accomodante, sembrava gli volessi fare un'intervista sull'ultimo disco uscito. Chi? Accia. Ma che dovevo fare? Scusi un attimo, ma Accia, ma che ha fatto di male adesso? Adesso, oggi, che fa di male? No, sta lì, adesso, in Turchia, ha sparato al Papa. È successo nel 1983, 81, quando cazzo era, non mi ricordo più, 81 credo. Ma che gli volete fare adesso? Lo volete impiccare? Non capisco perché non può essere ospite nostro qui alla Zanzara. No, può essere ospite benissimo, però magari non era un... Ma che dovevo fare? Dovevo impiccare... ha fatto 30 anni di galera, ma scusa, non è manco morto il Papa? Ma pensi a quelli che ammazzano la gente, pensi un attimo, a quelli che ammazzano la gente e dopo 7 anni vanno fuori. Questo qua si è fatto 30 anni e il Papa manco è morto. Scusi un attimo. Sai utilizzare anche altri toni, Cruciani, quindi... sfogali nel momento in cui magari c'è una persona che merita, fra virgolette, di avere un questo 13 maggio 81, adesso in maggio me lo ricordavo, 81 no, perché sono un po' rincoglionito, però scusa Vanni, caro amico Vanni, caro amico Vanni, questo qua ha sparato al Papa, non l'ha manco ammazzato, perché il Papa è vissuto fino al 2005, si è fatto 30 anni, tra una cosa e l'altra, ha fatto 30 anni perché è uscito di galera, è vero che poi in Italia è stato graziato, è andato in Turchia dove ha scontato un'altra pena, insomma è stato in galera per un sacco di anni, il signor Agcia, adesso potrà pure parlare e dire che sta con una di 25 anni, che si scopa una di 25 anni, sì o no? Sì o no? Che cazzo? Molto volentieri, fra l'altro ti volevo dire, come mai tutti telefonano con questo livore contro di te la sera? Sono ma che ne so, meglio così, ma bisognerebbe infondere un po' di ottimismo, di tranquillità, voglio dire, questa gente sono tutti frustrati, io invece... Io ti voglio bene, Ma ho capito, lei mi vuole bene, io sono d'accordo, mi piace molto questa cosa, però non mi critichi per il fatto che ospito Liag Cha, perché se mi vuole bene mi deve dire bravo che hai ospitato Liag Cha. Sei bravo che hai ospitato Liag Cha, ok, benissimo. Vabbè, si è convertito in due secondi. No, posso dedicare una Vanni, poesia? Una poesia, no, Vanni, una poesia, no, no, mica sono procio io, l'ultimo. Vanni, non dai, sono procio. Allora, la zanzara forte spara, con Cruciani e con Parenzo, dico solo quel che penso, con Parenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani. Beh, lei è un grande, la rifaccia di nuovo perché magari mi sono intromesso io all'inizio, la rifaccia? La zanzara forte spara, con Cruciani e con Parenzo, dico solo quel che penso. Con Parenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani. Giuseppe da Milano, grazie. Giuseppe, Milano. Comprendendo tantissimo il dolore che l'ha colpita, le vorrei fare le più sentite condoglianze per la scomparsa di Parenzo. Lo so, che vogliamo fare così. Capisco che in questi momenti di dolore uno si rifugia anche in imitatori, come quello che ha assunto in questi giorni, che lo imitano bene, ma che sotto sotto dimostrano solo che Parenzo è andato. Lo so, hai ragione, sì. Un attimo di raccoglimento tutti quanti, Vogliamo ricordare un'altra delle sue imprese prima, quando era lui. Ve lo ricordate a Torino, quando insultò alla grandissima il filo nazista Pallavidini, ve lo ricordate o no? Beh, sentite. Voglio che non ci sia l'equivoco di quelli che sono a casa, che io non voglio avere nulla a che fare con un fascista come lei, ex professore, ex sedicente professore, no, ex professore revisionista, nazista, no, non nazista. Sono revisionista. Perché per me poi sono talmente liberale non che possono parlare tutti, ma mi posso dire una cosa? Mi fa schifo. Vabbè, perché non il signore qui presente si chiama Renato Pallavidini ed è stato professore per tantissimi anni. Beh, avremo modo di farvi ascoltare questa cosa. Donato da Milano per concludere, Donato, rapido. Cruciani, una cosa velocissima. Sì. Io mi stanno mandando a lavorare negli Stati Uniti, sono stanco di lavorare, voglio svoltare insieme a lei e all'avvocato Taormina. Dobbiamo assolutamente brevettare la frase meglio baccato in testa che baccato in culo e diventerà un marchio, diventerà un trend, diventerà qualcosa molto molto commerciale. Allora ripetiamolo insieme. Meglio baccati se baccato in testa che baccato in culo. No, fatemelo risentire un attimo. Ma io sarò bagato in testa, andato fisco e se bagato in testa che bagato in culo, scusi. A lunedì 18:30, ciao. No, sai che mi ricordo mi pareggio di finire nel mirino di uno di quelli tipo la Boccassini o Henry John Cazzo di Legno, ecco, finisci nel mirino di uno di questi che ti prende di mira e ti comincia a cagare il cazzo come hanno fatto con Corona, con Emanuele Filiberto o qualcuno, e improvvisamente domani questo si sveglia e decide che ce l'ha con te. Sei finito, poi mo vieni a raccontare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. vi ha presentato La Zanzara.